Letture di Radio 24. Simone Moro, il noto alpinista bergamasco, ha rinunciato a scalare l'Everest, non per problemi di salute, ma perché in cordata c'era una coda interminabile di scalatori, molti dei quali improvvisati. Le foto spedite da Simone mostrano interminabili file di scalatori che salgono lentissimi lungo le corde fisse, ricorrendo all'ossigeno già da 6.000 metri. Riferisce che molti non sanno neppure manovrare le corde e devono aspettare che giunga lo sherpa per proseguire. Fra le tante assurdità del mondo contemporaneo, non poteva mancare la fila a 8.000 metri. Del resto si sa ormai da anni che basta sborsare 50-60.000 dollari e qualunque facoltoso scavezzacollo può acquistare l'Everest chiavi in mano. Se va bene, si ha qualcosa da raccontare ai nipoti. Se va male, si aggiunge il proprio nome all'elenco di oltre 200 morti che la montagna più alta del pianeta ha accumulato in 60 anni. Non è un caso che l'80% delle ascensioni della montagna si siano svolte dopo il 2000, quando iniziarono le spedizioni commerciali. L'Everest attrae per il suo stesso primato e ormai è diventato un colossale albero della cuccagna planetario su cui è successo di tutto. L'hanno scalato vecchi di 70 anni e bambini di 13. C'è chi è andato e tornato in bici, chi è sceso in parapendio e chi lo ha sorvolato in deltaplano. La vetta è stata toccata da disabili e da non vedenti, uno sherpa vi ha trascorso un'intera giornata e i giapponesi vi hanno tenuto una trasmissione televisiva. L'Everest è sempre più di moda, ma è sempre meno degli alpinisti. Questa è l'imprevedibile scoperta che è toccata allo scalatore bergamasco. Non è una notizia che possiamo accogliere con indifferenza. Con quella folla lassù a 8.000 metri, anche per noi il mondo si è un po' ristretto. Per fortuna ci sono più montagne tra la terra e il cielo che nell'immaginario mediatico e pubblicitario degli uomini del XXI secolo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Franco Brevini In coda anche a 8.000 metri. Meglio rinunciare a scalare l'Everest. Dal Corriere della Sera del 25 maggio.